noi digali e sei ingrata, che a chi la spero, che non ne vuoi. Niente per picchiare, che la cara, del mal che è tuo, e mi vita tu sei io. Non tema, non mi vede, stoi tranquillo, solo a venire, solo a sapere. Io ti amo, per trovare mi carino, con la tua figlio, e nessa persona. Ti dica, sto maula, sto tretta di nombre, che a chi voglio un ombre, si tiene in valor. Ti dica, gli amici, che a chi io la spero, che a chi io me muero, vorrei di amor. Sogni son passato desde il dia in che giurando fino a ti a mi lo sogno che lo sia per salvarla per vestirla e esserla per lì e solo per che si è stomatarmi per burlarmi le mi passione forse lo sviluppo di essere ingrata. Tu è venuto a cobrarmi tutto e chiò. Ti dico, sto maula, sto tretta di nombre, e a chi ha di nombre, ti tiene il valore. Ti dico agli amici, che a chi io la spero, che a chi io me muero, vorrei dire.